Lettera inviata a Bologna, presso il Concilio Ecumenico, dalla città ducale di Ferrara, indirizzata a Gian Pietro Carafa e datata 13 giugno 1547. All'illustrissimo e reverendissimo cardinale Giovanni Pietro Carafa in Bologna. Signore mio osservandissimo, mi sono risolto a comunicare alla Signoria vostra i risultati della mia indagine soltanto ora, poiché tanto è occorso per ottenere gli elementi necessari a comporre il quadro nel suo insieme. E dovrò aggiungere che, ciò nonostante, ancora non è possibile parlare con certezza assoluta di quanto mi accingo a esporre, poiché le persone con cui abbiamo a che fare sono assai scaltre e previdenti. Ma vengo subito ai fatti. Dopo aver viaggiato tra Milano, Venezia e Ferrara e aver preso contatto con gli inquisitori di quella città grazie alle lettere credenziali offertemi dalla Signoria vostra, sono giunto a raccogliere gli indizi sufficienti per affermare che l'inspiegabile diffusione in tutta la penisola del beneficio di Cristo è da imputare a una delle famiglie giudee più importanti d'Europa, i cui componenti, convertitisi alla vera religione, sono conosciuti presso la corte imperiale come Mendesi, dal nome del defunto Francisco Mendez, banchiere spagnolo, intimo dell'imperatore, consorte di Donna Beatriz de Luna. Quest'ultima è da considerarsi la matriarca della famiglia, a tutt'oggi residente in Venezia, interessata da sempre alla stampa e alla letteratura in genere, oltre che agli affari e ai commerci. Insieme ai nipoti, costei finanzia non soltanto la maggior parte delle pubblicazioni di argomento giudaico, ma anche autori cristiani, approfittando della propria doppia religione. La famiglia non è molto estesa. Donna Beatriz ha una figlia, Reina, e una sorella, tale Brianda de Luna, vedova niente meno che del fratello di Francisco Mendez, Diego, e a sua volta madre di una giovane in età da marito, Gracia la Chica. Gli uomini della famiglia sono i figli di un defunto fratello, Giovanni, che i veneziani chiamano Zuan, e Bernardo Miquez, per un totale di non più di 6 congiunti, di cui 4 sono donne. Nonostante questo, gli affari che i Mendesi intrattengono con i più importanti armatori e mercanti veneziani hanno dell'incredibile. La loro ricchezza deve essere enorme e i loro interessi giungono a coinvolgere alcune delle famiglie patrizie più antiche di Venezia. Ma ciò che più interessa la Signoria vostra è senza dubbio l'intenso commercio di libri, che li vede nel ruolo di mecenati, soci degli stampatori e non da ultimo responsabili della diffusione. Su quest'ultima attività in particolare ho indagato durante il soggiorno veneziano dell'ultimo mese e le scoperte sono state assai interessanti, tanto da condurmi qui, a Ferrara, sulle tracce del libro proibito. Ma è necessario che proceda per gradi. A Venezia sono giunto con deboli indizi riguardo al coinvolgimento di João Miquez nella diffusione del beneficio. L'unica persona che ritenevo in grado di darmi qualche informazione utile era Bernardino Bindoni, il primo stampatore del beneficio di Cristo. Il Bindoni è un piccolo stampatore rancoroso nei confronti dei più grandi colossi quali Giunti o Manuzio, meschino e tutto sommato reticente e poco propenso a parlare della faccenda. Faccenda la quale si è riferito sempre al passato, le poche volte che si è lasciato sfuggire qualche accenno. Ma, mentre lasciavo deluso la sua bottega, ha avuto l'ardire di consigliarmi che se proprio ero interessato ad acquistare una partita del beneficio di Cristo, avrei dovuto rivolgermi ai giudei. È stata più che una conferma. Lo stampatore giudeo, Daniele Bomberg, infine, mi ha indirizzato ai suoi colleghi usche di Ferrara. Ed eccomi, nei territori del duca Ercole II d'Este. Se dovessi stampare un libro dichiarato eretico dal concilio, è indubbiamente questo il posto che sceglierei. Qui, dove l'inquisizione ha le mani legate dal duca, uomo sanguigno e insofferente di ogni tentativo di ingerenza da Roma. Ferrara, a mezza via tra Venezia e Bologna, tra la Serenissima e lo Stato Pontificio, piccola marca indipendente con un facile sbocco al mare. È stato un lavoro lento, di attesa, ma ne valsa la pena. Battelli fluviali scendono il braccio del Po da Ferrara fino alla costa, dove imbarcano il carico su navi mercantili dirette a sud. Vi sono buone ragioni per ritenere che gli usche adottino lo stesso rimedio per far giungere le partite di libri alle navi veneziane che fanno scalo un paio di miglia al largo del litorale. Così si spiegherebbe il diffondersi del beneficio lungo l'Adriatico, attraverso le navi armate dai Mendesi a Venezia, spedite al largo delle coste ferraresi per aggiungere i libri al loro carico normale e quindi dirette a sud, a circumnavigare la penisola. Eppure, tutto questo ancora non svela nulla, poiché, signore mio osservandissimo, ciò che ancora sfugge è il perché. Perché una ricca famiglia sefardita si interessa di diffondere un libro cristiano? Per avvantaggiare gli avversari di vostra signoria, per aiutare il cardinale Polo e gli spirituali. Questa è la risposta probabile. Per far sì che sia sempre più difficile isolare e colpire i promotori del libello eretico, come è intenzione della signoria vostra. A Venezia ho potuto rendermi conto delle sottili strategie di sopravvivenza adottate da questi ricchi giudei. I Mendesi reggono le proprie fortune su calibrati equilibri di potere, scambi di favori, partecipazioni commerciali, mazzette. Questo è il modo con cui sono finora riusciti a scampare sempre alle persecuzioni. Gente come loro avrebbe tutto da perdere da un aumento di potere della congregazione del Santo Uffizio, dall'avvento dell'intransigenza. Con ogni probabilità, essi sperano che saranno quelli come Reginaldo Polo ad avere la meglio sugli zelanti, ovvero uomini di lettere morigerati e tolleranti, oggi disposti a dialogare e patteggiare con i luterani, domani forse con i giudei. A Venezia questa gente è assai potente, non fino ad essere intoccabile, ma di certo difficilmente raggiungibile con mezzi normali. I giudei in genere sono una componente essenziale della vita di quella città, ne fanno parte al punto che senza di essi Venezia rischierebbe di sprofondare. Come la signoria vostra sa bene, l'ordine della Serenissima si regge su un delicato incastro di competenze e poteri, di politica e commercio, nel quale è quasi impossibile trovare un varco. Attaccare una famiglia come i Mendesi significherebbe toccare un nervo vivo di Venezia, con tutte le conseguenze del caso. Per il momento mi tratterrò a Ferrara, in attesa di una risposta di vostra signoria e cercando di raccogliere ulteriori elementi sull'evolversi dell'affare beneficio. Bacio le mani di vostra signoria e alla sua grazia mi raccomando. Di Ferrara, il giorno 13 giugno 1547, il fedele osservatore di vostra signoria, Q.